Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Ci sono storie che non si possono nascondere nei cassetti e ci sono morti che portano un peso specifico. La morte del funzionario del Sismi Nicola Calipari è una di quelle. 4 febbraio 2005. Giuliana Sgrena, 56 anni, inviata del quotidiano Il Manifesto, viene rapita nel primo pomeriggio poco accanto all'università di Baghdad. Di mattina ha intervistato i profughi di Fallujah, nella moschea Al-Mustafa, proprio all'interno dell'università. Un veicolo taglia la strada all'auto su cui viaggia con l'autista e un interprete iracheno. Sotto la minaccia delle armi, i tre vengono fatti scendere dalla vettura e Giuliana Sgrena sale sull'auto dei rapitori e svanisce nel nulla. Io sono arrivata a Baghdad il 26 gennaio, sono andata all'Hotel Palestine come al solito e il 4 febbraio sono andata alla moschea Mustafa per fare delle interviste ai profughi. Alle 2:10 stavo andando via quando due o tre macchine hanno bloccato la nostra uscita e 4-5 uomini mi hanno presa, mi hanno portato su un'altra macchina e mi hanno sequestrato. Mi hanno portata non molto lontano, mi hanno tenuto in una casa che suppongo fosse la periferia di Baghdad. Da quel momento entra in scena Nicola Calipari, uno dei più capaci funzionari del Sismi operativo in Iraq. Serio, disponibile, educato, sempre con la sua sigaretta in bocca. Nicola Calipari è un fedele servitore dello Stato, uno di quelli che non tradisce le istituzioni. Non ama le armi, porta solo la sua pistola d'ordinanza. È un uomo di mediazione, più che di azione, e legge i suoi libri con molta attenzione. È impegnato in missioni difficili, in Iraq e in altre parti del mondo. Un antieroe, nulla di più. Nicola Calipari è in contatto con il direttore del quotidiano Il Manifesto, Gabriele Polo. Gli riferisce particolari importanti del sequestro di Giuliana Sgrena. Riferisco quello che Nicola mi disse in quelle settimane, è che il gruppo dei sequestratori voleva un riconoscimento pubblico del loro ruolo politico, che non erano dei banditi qualsiasi, dei delinquenti comuni, che quindi erano ex esponenti del BAT, rappresentanti che in qualche modo volevano essere rappresentanti del mondo sunnita che era in qualche modo tagliato fuori dal processo di ricostruzione e di nuova gestione politica del paese, che volevano rientrare in gioco. Era uno dei tanti gruppi sunniti che voleva anche attraverso questo sequestro avere un riconoscimento internazionale per poter giocare un ruolo politico all'interno del paese. 4 marzo 2005, un mese dopo il sequestro, Giuliana Sgrena è libera. La notizia è diffusa da Al Jazeera. Viene subito confermata da Il Manifesto. Il direttore del giornale, Gabriele Polo, e Pier Scolari, convivente di Giuliana Sgrena, vengono chiamati dal premier Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi. Ma la gioia della sua liberazione dura pochi minuti. Al Palazzo del Governo si vive in diretta telefonica la tragedia dell'omicidio di Nicola Calipari, il funzionario del Sismi, che sta riportando Giuliana Sgrena in Italia. In quel momento Gabriele Polo entra nella redazione del Manifesto e invita i colleghi delle altre testate, i fotografi, ad uscire dal quarto piano di via Tomacelli 123 a Roma. Tutti addetti, giornalisti fuori. Tutti addetti, giornalisti fuori. No, fuori. Per favore, tutti addetti, giornalisti fuori. Per favore, i giornalisti fuori. Chiedo ai colleghi per favore di uscire, veramente, ho bisogno di parlare 10 minuti con i compagni e le compagne del Manifesto. Andate fuori per favore, vi chiedo 5 minuti per parlare tra di noi. Non ci stiamo. No, facciamoli uscire. Io non voglio dire quello che devo dire davanti ai giornalisti. Andiamo in una stanza qui. Sì, però voglio che poi niente. Silenzio. Per l'economico, dai. Dai, spiegato. Gatto, che è successo? I americani gli hanno sparato addosso. Stavano andando all'aeroporto. E quattro in macchina, tre dei servizi più Giuliana. C'è spuntata una macchina blindata di americani, gli hanno sparato una raffica addosso. Giuliana ferita alle spalle ma sta bene, un altro essere ferito, e Nicola Caripari è morto. No. Quello che era liberato è morto. Il mediatore, no. Non si sa perché è successo. Cioè, oh, Giuliana, come Giuliana è ferita alle spalle leggermente, parla, cammina, è già in ospedale. Quindi adesso Pier sta andando a Baghdad con un aereo del Presidente del Consiglio. E niente, comunque lei sta abbastanza bene, però è morta la persona che l'ha salvata praticamente. Questo coraggio sembra che tra l'altro l'abbia salvato perché una seconda volta, perché si è messo davanti e si è preso tutto addosso. Nicola Calipari era una brava persona. Come avete sentito dal racconto di Gabriele Polo, a 700 metri dall'aeroporto di Baghdad, l'auto su cui viaggiavano Giuliana Sgrena, Nicola Calipari e un altro agente del SISMI viene crivellata da colpi di fuoco amico. Proviene da pattuglie statunitensi appostate lungo la strada. Nicola Calipari è colpito alla testa e muore sul colpo. Giuliana Sgrena viene ferita a una spalla. L'altro agente del SISMI, alla guida dell'auto, se la cava con una leggera ferita. La sera del 4 marzo 2005, Dario Ricci si collega con il portavoce del CENTCOM, Amy Salerno. What was given to us from our forces in Iraq is at approximately 8:55 p.m. in Iraq tonight. Intorno alle 8:55 post meridiane in Iraq, le forze della coalizione hanno sparato contro un veicolo che si stava avvicinando a un checkpoint in Baghdad, procedendo a velocità elevata. La giornalista italiana Giuliana Sgrena, appena liberata, era una degli occupanti dell'auto ed è stata ferita. Sembra che una seconda persona, presente nel veicolo, sia stata uccisa. La signora Sgrena è attualmente affidata alle cure del personale medico delle forze della coalizione. L'incidente è oggetto di indagine. Vi forniremo ulteriori dettagli quando saranno disponibili. L'incidente è sotto investigazione e ulteriori dettagli saranno forniti quando saranno disponibili. Giuliana Sgrena offre la sua versione su quella sparatoria. Io non ho nessun elemento per dire se c'era volontarietà o meno, però è chiaro che c'era uno scontro molto forte tra italiani e americani sulla politica rispetto agli ostaggi, e non è un caso che quando sono cominciate le anticipazioni sulla conclusione della commissione americana, sono circolate varie indiscrezioni, e prima è circolata la storia del satellite che avrebbe ripreso la velocità della macchina, che era evidentemente una bufala, ma poi subito dopo si è parlato del riscatto, no? Quindi questo vuol dire che poi alla fine si arriva sempre alla questione che gli americani sono contro il pagamento del riscatto, sono contro il negoziato con i rapitori, e quindi e questo è un forte scontro con gli italiani da parte degli americani. Quindi io non dico che volessero colpire, che volessero uccidere, ma forse che volessero dare una lezione agli italiani. Questo 7 marzo 2005 è il giorno del dolore e del lutto di una nazione. Quelli che sentite sono gli applausi che hanno reso l'ultimo saluto a Nicola Calipari. Una folla immensa, silenziosa, commossa dentro e fuori la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. L'omaggio a Calipari si è svolto davanti alle più alte cariche dello Stato. Il presidente Carlo Azeglio Ciampi, i presidenti di Camera e Senato Pier Ferdinando Casini e Marcello Pera, il premier Silvio Berlusconi, i segretari ed esponenti dei partiti politici di maggioranza e di opposizione. La generosità di Nicola Calipari è giunta all'apice più alto. Donare la sua vita per salvarne un'altra, ha detto nella sua omelia Monsignor Angelo Bagnasco, ordinario militare. La gioia corale per la liberazione di Giuliana Sgrena è stata offuscata dalla morte di Nicola Calipari, da tutti riconosciuto come nobile servitore dello Stato. Fare scudo con il proprio corpo a quello dell'ostaggio appena liberato nel tentativo di sottrarlo all'inatteso pericolo fa intravedere quello che Nicola ha sempre vissuto e mai ostentato, la grandezza dell'anima, quella grandezza spirituale e morale che ha preso nell'educazione in famiglia e che ha coltivato come l'eredità più cara, così come ha testimoniato il fratello sacerdote Don Maurizio. Io credo che non ci sia uno di noi qui presente, tutti gli altri che sono uniti all'esterno, che non desideri profondamente nel suo cuore che non ci siano più occasioni di guerra, di odio, di divisioni, di scontri. Un altro momento importante del funerale di Nicola Calipari è l'appello all'unità del paese di Gianni Letta, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza. È il momento di rendere onore all'eroico sacrificio di Nicola Calipari e di rendere omaggio alla sua memoria, senza divisioni, tutti insieme, senza polemiche. Lasciamole fuori le polemiche e stringiamoci tutti uniti alla famiglia di Nicola, alla madre signora Rachele, a lei carissima Rosa, ai tenerissimi figli Silvia e Filippo, a lei Don Maurizio, il fratello tanto amato. Poi il direttore del Sismi Nicolò Pollari rivela il contenuto dell'ultima telefonata con Nicola Calipari. Le sue parole, l'enfasi delle stesse, me lo hanno presentato, me lo fanno ricordare in modo diverso. Lui era sempre misurato nel parlare. E invece Nicola era gonfio, gonfio di gioia, gonfio di soddisfazione. Era in macchina con la signora Giuliana Sgrena, e insieme, gonfi di gioia, mi hanno detto: Vittoria è libera, è qui in macchina con noi. Dopo la pausa torna il racconto del giallo e nero su Nicola Calipari. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. 8 marzo 2005. L'allora ministro degli esteri Gianfranco Fini riferisce alla Camera dei Deputati sull'omicidio di Nicola Calipari e sulla liberazione di Giuliana Sgrena, inviata del manifesto. Voglio ricordare che fin dal giorno del sequestro, fin dal giorno successivo al sequestro, sono state sviluppate tutta una serie di iniziative che avevano innanzitutto come obiettivo quello di acquisire elementi comprovatamente utili. In primo luogo stabilire e verificare la serietà di contatti con degli intermediari credibili. In secondo luogo avere la certezza della esistenza in vita della nostra connazionale. E in terzo luogo indirizzare tutte quelle che erano le azioni di tipo politico, di tipo informativo, di tipo diplomatico, indirizzare tutta questa serie di iniziative verso l'obiettivo che ci eravamo dati in piena e credo autenticamente sincera concordia, vale a dire rendere possibile il risultato della liberazione della Giuliana Sgrena. In questa prospettiva il nostro servizio di intelligence, il SISMI, dando attuazione alle direttive del governo, ha operato sul terreno in Iraq attraverso tutti quei dispositivi che già da tempo erano dispiegati e sono dispiegati in zona, dispositivi che, vale la pena ricordarlo, erano stati impiegati anche in altre circostanze e avevano reso possibile la liberazione di altri ostaggi. Si apre un'indagine del gruppo investigativo congiunto americano e italiano. Le domande a cui i funzionari dei due stati devono rispondere sono di rilevanza fondamentale. Quanti erano i soldati americani al checkpoint? La macchina con a bordo Calipari l'autista e Giuliana Sgrena viaggiava realmente a forte velocità? Quanti colpi sono stati sparati? In quale punto della vettura? Al termine del lavoro le versioni restano comunque distanti. Per gli americani l'uccisione di Nicola Calipari sarebbe stata originata da presunte imprudenze degli agenti dei servizi italiani della stessa vittima. Raffaella Calanda intervista Barry Venable, portavoce del Pentagono. È il giorno in cui l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi parla di ritardi dovuti a divergenze all'interno dell'amministrazione americana. Eviterei di commentare le parole del Presidente del Consiglio italiano. Sarebbe inappropriato da parte nostra, per cui non posso in alcun modo rispondere alle dichiarazioni del Premier su presunte divergenze all'interno dell'amministrazione americana. Posso solo dire che c'è un solo governo americano. Il segretario alla difesa lavora per il Presidente e per di più le indagini si stanno svolgendo a Baghdad, non a Washington. In ogni caso, non sono ancora state rese pubbliche. I rappresentanti italiani incontrano per mesi limiti e restrizioni. L'ostacolo maggiore resta comunque l'applicazione della normativa statunitense Army Regulation 15.6. Army Regulation, che disciplina procedure e modalità per le inchieste nell'ambito dell'esercito americano. La sera del 4 marzo 2005 il luogo della sparatoria non viene, come si dice in gergo, congelato. Anzi, viene ripulito, perfino alterato. Nessun italiano presente a Baghdad riesce a raggiungere il checkpoint. Neanche successivamente, durante i lavori della commissione congiunta, si è potuto ricostruire la scena del crimine. Le autorità militari statunitensi hanno ritenuto inopportuno anche il sopralluogo notturno. E ancora i bossoli utilizzati dalla pattuglia americana vengono rimossi ed eliminati. Le armi manomesse e l'autovettura rientrata in Italia solo dopo 2 mesi. Nonostante queste difficoltà, la Procura della Repubblica chiede il rinvio a giudizio del soldato americano Mario Lozano, accusato di omicidio volontario, duplice tentato omicidio in relazione al ferimento della giornalista del Manifesto e del maggiore del servizio segreto militare Andrea Carpani alla guida della Toyota Corolla. Scrivono i magistrati. La morte di Nicola Calipari, avvenuta la sera del 4 marzo del 2005, mentre lo 007 del Sismi stava raggiungendo l'aeroporto di Baghdad con Giuliana Sgrena, appena liberata dai sequestratori iracheni, è un delitto obiettivamente politico, perché ha leso la sicurezza dello Stato. Delitto politico, non omicidio, come conferma il sostituto procuratore della Repubblica Franco Ionta in una recente intervista al programma di Rai 3, Report. Se si ritenesse che questo non è un reato di omicidio volontario, con dolo indiretto, con dolo eventuale, come diciamo noi, mi rendo conto che è un po' difficile spiegare questo, ma che si trattasse di un reato contro la personalità dello Stato, ci sono condizioni di procedibilità più agevoli rispetto a quelle che un delitto comune commesso da uno straniero all'estero richiede per essere processabile in Italia. E ora non resta che aspettare il processo. Si spera che almeno la forza delle parole di Rosa Calipari possano smuovere il muro di gomma. Nicola ha non solo condotto a termine la sua missione, la liberazione di Giuliana Sgrena, ma ha anche sacrificato la sua vita per proteggerla dal fuoco amico. E proprio per rispettare quella bandiera, nella quale è tornato avvolto da Baghdad, continua a chiedere con forza e determinazione la verità su quanto è realmente accaduto, e di far luce sulle responsabilità di coloro che direttamente o indirettamente ne hanno causato la morte. Non è possibile avere pace se non c'è giustizia. giallo e nero. Un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.